Buon 25 aprile. Allora, se passate in quel di Niguarda, dove c'è l'Ampi, questa cartolina ve la danno in omaggio, non si bisogna pagare niente. Io credo che se noi tutti teniamo questa cartolina a casa, quando arriva un amico, quando arriva un parente, io ho 5 nipotini, la più grande già sa un po' la storia di Lia, credo che potremo fare in modo quello che è il nostro obiettivo, che di questa donna si ricordino tutti quanti. Buon 25 aprile! Pace, pace, pace e pace! Grazie Rossana Mola! Grazie! Giovani medici. Si batte per i diritti dei medici in formazione per garantire. Perfetto, tu sei Didi Massabozzi. Vai tranquilla Didi, quindi adesso ma lui ci sono solo io come intervento sulla sanità. Sulla sanità sì, sì, l'ho presa io. Scusa. Ah, perfetto, sì, stasera sì, c'è okay. Stato un altro intervento al Carcano. Al beh, intanto buon 25 aprile. Siamo qui, ok. Ho girato i microfoni, quindi adesso sono il B. Oh, bene. Miss Red, siamo, questo è il tuo? Yo-yo, ciao. Yo-yo, eccoci. Tra poco sul palco? Sì, fra un'oretta. Ah, così alle... tanto, abbiamo un sacco di tempo per intervistarti. Mamma mia, no. Sì, fin troppo. Ti scaldi un po', sciogli la lingua. Esatto, perché devo proprio parlare. Cosa rappresenta per te questo 25 aprile oggi e perché sei qui e come hai trovato questa piazza di periferia, e ci piace tanto dirla questa parola? Allora, innanzitutto sono contentissima che siamo tutti in presenza, veramente un tuffo al cuore vedere vedere delle facce, salutarsi, abbracciarsi, vedersi, esatto. E, sicuramente sono contenta che stia piovendo, così questa scelta è stata ancora più avvalorata. E lo spazio super underground, si sente bellissimo, benissimo, c'è una bellissima atmosfera, per cui non potrei essere più contenta. Quante persone secondo te in questa allora, piazza? Allora, io ho già sentito delle stime fatte alla radio qua. Quale radio? La radio Zam? La radio... avevo ascoltato l'antagonista. No, non siamo antagonisti, siamo cugini alla lontana, noi siamo quegli estremisti. I cugini di città. I cugini moderati. Ok. Loro dicevano 1000, io a dare i numeri faccio un po' schifo. 1000 oggi, oggi pomeriggio. Quindi tu quanto dici? Secondo noi, poi ne parlavo anche adesso con i cugini di Radio Pop, secondo noi siamo intorno alle 2000 persone. Che bomba, grandissimi, no ma super, tutti bravissimi, big up. Oggi cosa ci porti? Mi sono un po' preparata perché ero un po' emozionata e in più un set breve è più complicato di un set da 4 ore che te la fai un po'. Quindi inizierei con un pochino di reggae giusto d'assaggio, poi Ragga Jungle, Tropical Bass e poi vediamo. Fantastico. Dai. A più tardi allora. Grazie mille. Big grazie up. A te. Dodici. Aspetta. Non si sente, no, si sente. Copro il buco e ti intervisto un nanosecondo. C'era il cavo Barzotto. C'era il cavo Barzotto. Mattia, siamo qua con Mattia di GTA, grato soglio al tuo distito. Ma innanzitutto ti ringrazio perché sei stato uno dei pochi che ha ringraziato e salutato ZAM come realtà insieme a Partigiani del Quartiere, organizzatrice di questa bellissima piazza del 25 aprile. Ciao a tutti, ci mancherebbe, sono 1000 anni che facciamo le cose con ZAM. E quando si fanno un culo così per organizzare una serata così figa, poi proprio il 25 aprile, che è da 2 anni che non si fa, è il minimo. Allora, due parole, una su GTA e una su ZAM, visto che conosce entrambe bene entrambe le realtà. Allora, GTA è uno spazio molto brevemente, però insomma ci siamo ritrovati tra amici che eravamo di quartiere a Gratosoglio, a periferia Milano Sud, che il quartiere faceva schifo, in più c'erano 1000 scritte dei fascisti di Forza Nuova che c'erano la sede lì vicino. Abbiamo detto facciamo qualcosa, siamo partiti molto da semplici, abbiamo fatto delle feste, abbiamo fatto così, e poi pian piano abbiamo iniziato a occuparci dei vari problemi del quartiere, da cosa nasce cosa, e alla fine abbiamo fatto la brigata. E in tutto questo percorso, diciamo, Zam in realtà ci è stato a fianco fin dal primo momento, noi abbiamo chiesto loro fin dall'inizio consigli, aiuto, un po' hanno portato un po' la loro esperienza, diciamo. Sì, anche perché poi loro sono nel quartiere di fianco, ci hanno portato sia l'esperienza che aiuto materiale, mezzi, strumenti, e ci siamo coordinati in tutte le attività, buona parte delle attività che abbiamo fatto. Adesso anche la brigata infatti l'abbiamo fatta assieme, sì, ricordo bene. E vabbè, quindi di Zam non diciamo nulla, nel senso l'abbiamo già detto. Di Zam che dire, più di... non saprei cosa dire di più, nel senso io li conosco appunto da quando si sono trasferiti in via Sant'Abbondio, l'occupazione è una figata al palazzo, è bellissimo, fa mille iniziative interessanti, si va anche lì a far palestra, si sta provando questi giorni. Bravo, bravo, hai detto un palazzo bellissimo, ne parlavo prima anche di là, palazzo bellissimo cosa intendi? Cioè proprio a livello estetico? Nel senso che la struttura è bella, è un'ex caserma dei vigili che finalmente serve a qualcosa, e poi fuori hanno fatto dei graffiti, dei pezzi alla Madonna, veramente belli insomma. Anche dentro comunque fighissimo. Eh? Anche dentro fighissimo. Dentro hanno attrezzato sotto tutto una parte per fare, diciamo, scalata, bouldering. Di fianco c'è tutta appunto la palestra, c'è il laboratorio hip hop dove puoi andare, screcciare, puoi anche registrare musica. Insomma, pieno di attività veramente fighe. C'è la radio, bravo, scusate, mi scordavo. Devo dire che noi come GTA siamo cugino minore, abbiamo molto meno spazio e attività. Siete i nostri fratellini, noi vi accogliamo sempre, anzi la butto lì come stimolo, se vi va di fare una trasmissione tutta vostra, la radio è anche uno spazio di cui potete godere e fruire. A voglia. Noi siamo contentissimi e vogliamo fare una cosa insieme. Sarebbe una figata. Dai, come sarebbe? Facciamola. No, facciamola, dico, sarà una figata. Beh, bene, mi piace già di adesso più. Adesso ci districhiamo dei 10.000 sbattimenti e troviamo il tempo e lo si fa. Ottimo, ridiamo voce al palco, grazie mille. Grazie a te, grazie mille. And if you like me down before, I won't take you so. C'è stata una grossa fucilazione fascista verso la fine della guerra, in realtà la guerra era già finita, a Valaperta. Qualche giorno prima di questa fucilazione sono stati uccisi due ragazzi al paese mio, Carnate, che in realtà erano due lavoratori delle ferrovie con la tessera del partito fascista e tutto, però che a un certo punto si sono disgustati e hanno cominciato a fare dei piccoli sabotaggi sulla linea ferroviaria e sono stati fucilati in un posto in campagna dove c'era un lago. Questo lago è rimasto fino a che ero bambino io negli anni 80 e a fine estate diventava il fango, diventava tutto blu per le alghe, Blue Mud Bay. Thank you. place. I'm on the way to the Blue Mud Bay. Eccoci, rientriamo. Non ce ne vedrà Boudron, che lo sfumiamo un attimino, ma siamo qui con un ospite di prestigio, Renato Sarpi, di Atria Cooperativa. Beh, innanzitutto complimenti per quello che fai, quello che grazie. Fate. Com'è stato questo 25 aprile? Beh, lo dicevo prima anche agli amici, io ho trovato una grande partecipazione, una grande voglia di partecipare. Ieri sera a Niguardo abbiamo fatto 24 aprile, che Niguardo festeggia il giorno prima, perché insorge il giorno prima nel 1945, però sotto sotto quella gioia che poteva essere più esclusiva e diciamo così è marcata stretto da questa cavolo di guerra che in qualche maniera, cioè, non ci lascia, non ti può lasciare indenne. Ci ha sicuramente condizionato, una cosa brutta, brutta quello che succede, brutta come viene raccontata, violenta, ma forse la prima vera guerra social si è detto di questa cosa qua. Noi come la vogliamo contrastare? Come... Non lo so, io sono pieno di dubbi, non so cosa fare, so che sono distrutto dentro, cioè lo vivo come un incubo e poi non so quale sia la condizione migliore, se trattative, se dare le armi, se pacifismo. Al momento sono molto confuso perché non so cosa può succedere. Sta di fatto forse che però... è quello che vogliono, confonderci e svuotarci di una coscienza, di prendere una posizione, in maniera che quello che ci cade addosso uno dice va, si è preso una posizione, forse è quello che vogliono in questa narrativa. Sì, però il problema è che oggi che doveva essere una festa, ricordando poi le donne che conoscevamo noi quando abbiamo aperto il teatro, che era Stefania Vecchio, che era la moglie di Pesce, la Nori Pesce, che c'era la Delina del Ponte e altre donne, e mi veniva in mente oggi mentre sfidavamo, dicevo chissà cosa avrebbero detto loro, chissà come avrebbero reagito loro, che hanno vissuto quei periodi, i bombardamenti, le torture, le violenze, e quindi niente, c'è questo malumore che ci ha fregato un po', un ritorno dopo 2-3 anni che poteva essere gioioso e basta. Ma non ci facciamo rovinare la festa, noi 25 aprile oggi, 25 aprile tutti i giorni, certo. Come hai trovato questa piazza oggi? Beh, bella, eravamo anche molto attenti, prima c'era un rap tremendo, cioè, come per, tremendo? No, tremendo nel senso di impatto, picchiava, ho chiesto a Alessandra, ma siete sicuri che andiamo, non penso tanto, invece devo dire che poi sono stati diritti e un'attenzione, anche perché la storia di cui parliamo, la storia di Gina Bianchi Galeotti, in battaglia Lia, deve diventare un patrimonio comune della memoria della città e dei giovani. Difatti ho invitato tutti a passare a Lampi di Niguarda, che ti danno la cartolina sua, che te la metti in casa e che così uno, se arriva un amico, un parente, i nipotini, la zia, eccetera, racconti la storia e forse diventerà un patrimonio di questa città che se lo meritava, no? Lo è già, lo è già, credo che la sua vita e quella del bimbo che va in grembo per la nostra libertà, una memoria da portare avanti, quindi grazie, certo, di quello che fate. E una piazza giovane oggi, no? Come? Sì, sì, beh, ma è sempre stato poco, è sempre stato giovane. Io ai tempi, i primi anni, bevevo 6-7 birre, adesso mi limito uno. Una o due, dai, una o due. Ma si parlava prima con i ragazzi che organizzano i partigiani del quartiere, c'è stata anche una forte attenzione di quello che era non solo la musica ma anche i contenuti di questo palco, confermi? Ma è sempre stato così, devo dire la verità, anche quando abbiamo fatto gli anni passati Mai Morti, altre cose, quando fai il pezzo di teatro a volte anche più tardi, e più tardi si va più la birra corre e altre cose, no? Ecco, diciamo che però quando c'era il teatro Mai Morti altre cose sono sempre stati, boom, stavano attenti, tutti attenti, quindi c'è una sensibilità, ecco. Tutti però una buona parte. Ottimo. Grazie mille. Passiamo a Rossana? Passiamo. La magnifica Rossana Mola? Sì. Rossana! Rossana! Rossana! Non ci sentirà mai. Stiamo provando a urlare a Rossana di venire. Dai Rossana, vieni a fare due parole velocissima. Eccoci qua. Buonasera. Rossana, non mi piace la tua attitudine. Perché? Perché? Amo molto parlare davanti al pubblico. Davanti al pubblico. È per quello che c'è di farti. Devo avere la maschera del teatro. Com'è andato questo 25 aprile? Bene, faticoso, perché fortunatamente ci sono state tantissime iniziative, quindi devo dire molto molto bene. Molto bello, l'ho sentito forte quest'anno, ancora più dell'anno scorso, malgrado malgrado tutto, e quindi no, dai, è stato proprio, proprio forte. Dai. La piazza, una piazza giovane. Piazza attenta. Giovane, molto attenta, mi ha colpito in maniera molto, molto positiva, perché c'era un ascolto bellissimo e si sono come fermati. Arrivavate in un momento facile dopo il rap. Ecco, sì, infatti ero un filo preoccupata per quello, perché comunque cambia totalmente il livello, no? E invece no, è stato magico, si è fermato tutto, l'ascolto era bello, avevo gli occhi attenti, bello, molto emozionante, ma come sempre, per me venire qui è sempre, sempre bello, sempre bello. Ottimo, dai, ti ringrazio, grazie, grazie, lascio andare, grazie, non a te. Ti tedio troppo. Grazie, buon 25 aprile, grazie, a presto. Ritorniamo con la diretta al palco. It's in love, there is only thing that you can do, just turn around and fight yourself away. Just turn around and fight yourself away. Turn around and fight yourself away. Just turn around and fight yourself away. Just turn around and fight yourself away. Grazie. Grazie. Bene, il set è molto breve, quindi penso di farvi ancora un paio di pezzi. La prossima è una canzone di un cantautore americano, californiano. Si chiama Nothing Ever Dies. È per tutti i morti che non volevano morire. Grazie. Bene, vi suonerò l'ultimo pezzo. Parla di uno dei miei cani, la Marcella, di un sogno che ho fatto molti anni fa. Sono andato a portare la Marcella a fare un corso di agility dog, e anziché riportare la parla, quando sono andato a prenderla, suonava il basso in una band di cani, suonava Hey Bo Diddley di Bo Diddley. Il pezzo si chiama Well, I Sleep My Dogs Goes to the Beach and Plays Bo Diddley. Ringrazio. ringrazio molto Partigiani in ogni quartiere per avermi invitato, voi per essere qui. Beh, siamo qui adesso con Nicolò e Zacca, le prendiamo come voci dal pubblico. Voci dal pubblico nel backstage. Voci dal pubblico nel backstage. Cosa vuol dire oggi per te oggi essere qui a lavorare il 25 aprile? Beh, è un gran bel momento, diciamo, perché stiamo facendo una cosa buona, sei consapevole che stai facendo qualche cosa di utile, di bello, e realizzi che è il tuo lavoro, quindi questa cosa qua, diciamo, ti fa stare molto bene. È un gran successo personale per quanto mi riguarda. Una sorta di responsabilità. Sì, certo, sempre. Però è prima di tutto, dal mio punto di vista appunto personale, essere, fare un qualche cosa di bello e essere riuscito a trasformare nel proprio lavoro, quindi questa è una cosa molto bella per me. E poi soprattutto dare la possibilità a chi non è potuto partecipare oggi qui in presenza di in qualche maniera essere presente, anche se da remoto, a questa grande giornata. Sì, beh, questo qua poi è il concetto un pochino della radiofonia e di far sentire a casa le persone quello che succede in giro per il mondo, piuttosto che in uno studio radiofonico, e in questo caso in giro per Milano in questa giornata così importante. Quindi come vedi il trasferimento dal centro di Milano alla periferia? Dici per la manifestazione? Sì. Ma allora ci sta, sicuramente da un punto di vista simbolico, senza dubbio. Vabbè, poi è stato fatto chiaramente per la questione della pioggia, però da un punto di vista simbolico ci sta sempre. D'altronde l'iniziativa deve essere comunque popolare, più popolare della periferia non c'è niente, quindi ci sta a fare le cose in periferia, senza dubbio. È forse più bello vedere tutta questa gente qui in Famagosta rispetto che al centro della campagna, nel senso, sì. Arrivare in centro sarebbe stato forse più semplice, venire qua vuol dire avere proprio averlo voluto. Certo, beh, senza dubbio senza dubbio fare le cose in centro è molto più comodo, è molto più bello perché l'arco è bello, perché sei vicino al centro, quindi catturi anche tanta gente che passa di lì a caso, tra virgolette, ti fai vedere, ti fai sentire, è una risonanza infinitamente maggiore, su quello non ci piove. Però è anche vero che piove oggi. Esatto, purtroppo ci piove parecchio. Però è anche vero che in luoghi della periferia molto spesso non c'è un cavolo da fare, sono comunque snobbati. E quindi fare comunque una manifestazione come Partigiani di quartiere in Famagosta, da quel punto di vista, senza dubbio significa probabilmente un riavvicinarsi di più alla vera essenza dell'essere popolare. Fantastico, ti ringrazio. Grazie. Potron, il bluesman della Brianza. Adesso invece lasciamo spazio alla rete Student con l'asterisco finale Milano, che magari qualcuno di voi lo sa, è un movimento studentesco che lavora, opera all'interno di licei, istituti, collabora con collettivi diversi. Siamo qui con Zacca. Zacca, prendo anche te come lavoratore del 25 aprile. Cosa vuol dire per te essere qui oggi? Ci sarei stato comunque. Avrei preferito senza lavorare, però. Ci tocca. Ci tocca, bisogna farlo. Vabbè. Sempre così. Noi lavoriamo quando gli altri festeggiano, gli altri sono liberi. Facciamo la portavoce, se non ci fossi tu perlomeno, sarebbe più difficile portare il verbo sulle frequenze. Sì, no, ma infatti lo accetto di più rispetto agli altri anni in cui lavoravo nei live e magari il 25 aprile mi trovavo a fare il concerto di qualcuno che non mi interessava, quindi almeno questa volta stiamo lavorando, però oggettivamente stiamo dando voce a dei contenuti che hanno senso. E condividiamo. Sì, che condividiamo, che è giusto che vengano diffusi. Una domanda un po' che ricorre, secondo te quanta gente è passata da qua? Credo tanta, dicevano 2000. Un paio di migliaia. Ma sì, no, vabbè, c'era tanta gente qua, quindi bene. Bello. Anche se non siamo in centro, però si chiama Partigiani in ogni quartiere e i quartieri sono pure periferici. Non sono tutti in centro. Quindi va bene che sia così. Ti ringrazio. Ciao. E torniamo live. Ciao. E torniamo live con gli studenti. Ricordiamo che in ZAM abbiamo dato spesso voce a, alle voci studentesche, dai licei occupati, dalle scuole occupate, sentiamo dal palco. Ognuna di noi perché luogo di scambio e confronto. Rielaborare la resistenza per noi significa costruire comunità critiche, consapevoli e in grado di interfacciarsi in maniera sovvertiva all'esistente. Il nostro compito diventa dunque quello di agire non più come individui esterni alla collettività, ma come parte attiva e integrante di quest'ultima. L'alternativa nascerà quindi dal cuore pulsante del gruppo per proporsi come antagonista alle dinamiche dell'oggi. Negli ambienti scolastici che attraversiamo quotidianamente, rielaborare la resistenza assume un significato e un'impostazione molto precisa. Abbattere gli schemi oppressivi che impediscono lo sbecciare di una realtà alternativa, scoraggiando lo sviluppo di una socialità libera e ribelle. Ed è per questo che la resistenza si crea nello scambio e si sviluppa con il confronto tra individui che convergono poi in comunità. Esse hanno come obiettivo intrinseco lo sviluppo di menti aperte e critiche. Questa prospettiva dovrebbe concretizzarsi nel fine stesso dell'educazione, ma il sistema scolastico attualmente si contrappone fermamente al conseguimento di questo progetto. Ciò che denunciamo del sistema scolastico odierno è la cecità di fronte a questi bisogni, il disincentivo alla partecipazione di studenti e studentesse negli spazi scolastici e lo scambio indipendente di informazioni e pensieri. Denunciamo anche la noncuranza con cui Stato e Governo, politicanti e superricchi sfruttano e consumano le fasce più basse o meno influenti della popolazione, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici fino ad arrivare a studenti e studentesse. Sopperire a queste mancanze è ciò che noi oggi chiamiamo resistenza. Una resistenza che si esprime nelle occupazioni delle scuole, contro presidi e politicanti che non sono e mai sono stati in grado di garantirci quel tipo di educazione orizzontale completa, non solo didattica, che negli anni i movimenti studenteschi hanno chiesto e richiesto, nei cortei repressi dalla polizia, nelle feste e nei momenti ludici tutti. Pertanto, a partire da questa condizione, è per noi, comunità scolastica, imperativa e urgente una prospettiva di cambiamento che non può esistere senza unità e informazione e che diventa essa stessa barlume di resistenza. Grazie. La sanità adesso, allora. Sanità? Allora, sanità. Grazie Rete Student Milano e un altro intervento. Io sono bassissimo. Eccoci qua. Mi sentite? Ci sentiamo? Eccoci. Siamo riusciti a intervenire. Siamo in diretta su Radio Zama, dire cuffie, le cuffie non te le ho date, le cuffie sono dietro di me. Un secondo. Ok, eccoci. Allora, innanzitutto complimenti per quello che hai detto. Quello grazie. Che, tu lo sai che su Radio Zama teniamo una trasmissione in cui intervistiamo i tuoi compagni dei collettivi e portiamo le voci dalle scuole quasi settimanalmente. Sì, sono un grande fan. Ho anche partecipato tra l'altro a una volta, sì, purtroppo sì. Come purtroppo? Cioè, purtroppo una volta sola. Esatto, infatti era qui che volevo arrivare. Ma dicevamo che era importante, quanto è importante il fatto di far sapere un po' le istanze degli studenti e quali sono state le difficoltà, innanzitutto ovviamente di quello che è emerso dal Covid, ma di quella che è la storia, la situazione della scuola pubblica ogni giorno, Covid e non Covid. Beh, è molto importante perché noi siamo una fascia anche abbastanza importante della popolazione e comunque noi questa pandemia, anche se non sembra, l'abbiamo sofferta tantissimo e non sembra perché nessuno ne ha parlato sostanzialmente. I nostri vari problemi, le nostre varie rivendicazioni sono stati sempre trattati come dei problemi, come un gioco da ragazzi, non so come dire. E uno la questione scherzo. Sì, quasi. La questione è che in questo momento in Italia sta succedendo una cosa grandissima, nel senso che si sta creando un movimento studentesco nazionale che può e ha la voce per portare queste, per portare tutto il nostro mondo anche all'esterno delle scuole. E quindi appunto parlarne è importante proprio perché significa anche riconoscere un qualcosa che c'è di molto forte. Quindi cosa facciamo? Manteniamo viva questa trasmissione di Radio Zame, la rendiamo qualcosa di un po' più continuativa? Assolutamente sì. Ti aspetto giovedì. Grazie. Ci vediamo lì. Nonni, le vostre zie, le vostre mamme, papà, sono in lista d'attesa da chissà quanti mesi per una radiografia, un TAC, qualsiasi cosa. Quindi, per ricollegarsi alla giornata di oggi, la professione di noi medici, infermieri e personale sanitario è una professione partigiana, perché consiste innanzitutto nel prendere parte. Durante la Resistenza il personale sanitario ha avuto un ruolo fondamentale, erano medici, infermieri, studenti che hanno dato una lettura sociale del giuramento di Ippocrate e mettevano al servizio della libertà il loro operato. Alla luce di questo noi oggi vogliamo ripensare al nostro ruolo in questa fase, cioè più che rappresentarci quando è comodo come gli eroi della pandemia, crediamo ci sia bisogno di una medicina intesa come cura collettiva in grado di impedire che qualcuno di noi venga lasciato indietro. Restituire alla sanità pubblica una centralità nel proprio ruolo sociale significa ribadire quell'idea di accesso alle cure come universale e gratuito. Per questo come associazione di medici, la nostra Chi si cura di te, ci siamo impegnati sempre nella sospensione dei brevetti sulle vaccinazioni per permettere l'accesso alla vaccinazione a tutta la popolazione mondiale e attualmente stiamo collaborando con i CPR, con l'associazione No CPR per la formazione dei medici sulle migrazioni e sulle patologie dei migranti. E ci siamo schierati al fianco del personale sanitario nei pronto soccorso nelle mobilitazioni per le condizioni di lavoro stremanti e precarie. Quindi io sono qua stasera per dirvi che noi medici ce la stiamo mettendo tutta per riportare al centro del dibattito la salute del singolo cittadino. Grazie. Grazie. Grazie Didi. Allora adesso è il tempo di raccontare un'impresa epica, chissà se voi ne avete sentito parlare. È stata la Milano Sanremo per la cultura. Della cultura, dello spettacolo. Allora, però gruppo, a Sanremo. Diciamo chi era. È un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Che a un certo punto l'anno scorso, quindi in piena pandemia, quando non si poteva mettere fuori il naso di casa, hanno deciso di pigliare la bicicletta e, per protestare, quindi con un'azione poetica e politica, hanno deciso di prendere da Milano, sono andati a Sanremo al festivalone. Ovviamente, esatto, proprio per arrivare giusti giusti per il festival. Ma il festival? Al festivalone Amadeus e i colleghi, lavoratori, lavoratrici dello spettacolo non se la sono cagata l'ultima ruota. Non gli hanno aperto le porte del palco dell'Ariston, però ci pensiamo noi. Questo palco senza fiori, senza cambi d'abito, senza vallette, soubrette, senza paillette, ma con un grande cuore partigiano immenso, accoglie l'ultima ruota. Rita Pelusio, la comandante, un pezzo della crew che ha pedalato senza con lei. Microfoni. Sono tutti bagnati perché sono arrivati in bicicletta anche qui stasera. Senza paillette, ma almeno un microfono ce l'abbiamo. Ce ne abbiamo anche due, non so. Serve almeno anche altro? Sì. Uno microfono. Uno. A te il palco, Rita. A cosa è successo? La cosa bella di Partigiani in ogni quartiere di quest'anno è proprio il fatto che la rete si sta ampliando. Siamo venuti qui come ultima ruota, ma non solo. Siamo praticamente mezzi di partigiani in ogni quartiere. E quest'anno si è unito anche ATIR e quindi abbiamo fatto una staffetta dal Carcano a qua e sono state lette quattro lettere. La mia la leggerò in fondo, mi hanno riservato la chiusura. E la prima lettera che abbiamo portato è stata una lettera degli studenti della sanità e dei lavoratori dello spettacolo e adesso noi, ultima ruota, abbiamo portato, siamo zuppi ancora, la lettera di uno dei lavoratori dello spettacolo che chiamo sul palco, Simone Faloppa. Perché l'ultima ruota, Rita, non si ferma. L'ultima ruota non si ferma. È stata un'impresa, ma in realtà è una manifestazione continua. Sì, ultima ruota continua. Poi vabbè, non rubiamo tempo, tanto c'è bordello. Eccoci. Caro Comitato di Liberazione Nazionale, cari partigiani, 240.000 di voi da ragazzi scelsero di imbracciare le armi dopo l'armistizio per riprenderci il nostro paese e liberarci dal nazifascismo. La vostra fu una scelta morale, il vostro sacrificio ci ha dato una Costituzione e una Repubblica. Purtroppo molti di noi hanno disatteso le aspettative del paese. Eccoci, siamo qua con Didi. Didi, chi... Sì, quello è il tuo microfono. Siamo qui con Didi, di chi si cura di te? Didi, tu rappresenti un, come lo chiamiamo, un collettivo? È un'associazione di giovani medici che difendono i diritti dei medici in formazione e il diritto alla salute di tutti e tutte. E dicevi, siete una realtà che esiste prima del Covid. Sì, noi ci siamo concentrati dapprima sulla difesa dei diritti dei medici in formazione, ma in realtà noi non facciamo un'operazione di difesa di classe medica. Noi vediamo il nostro ruolo come un ruolo centrale nella società per impegnarci a tutelare la salute di tutti e quindi l'accesso alle cure di tutti. E abbiamo diverse campagne che agiscono in questo senso, ci siamo battuti per la sospensione dei brevetti sulle vaccinazioni, adesso abbiamo fatto partire questa campagna della medicina transfemminista per proporre un modello di medicina più inclusivo, stiamo scrivendo una controguida della medicina transfemminista, una cosa molto interessante, tra l'altro vi consiglio di leggerla quando uscirà. E vuoi iniziare a raccontarci le pillole? Allora sì, è un progetto che è nato dalla necessità di rivedere la medicina per come la conosciamo oggi. Noi abbiamo un tradizionale sistema di genere che governa gli ospedali e le università. Io mi trovo in ospedale e in università in qualità di medica in formazione e vedo proprio, purtroppo la medicina patriarcale permea questo sistema a tutti i livelli, sia dal punto di vista dei medici sia dal punto di vista dei pazienti, e quindi questo non garantisce l'accesso a tutti i pazienti, a tutte le pazienti, perché molti di questi non si sentono neanche rappresentati o comunque non si sentono riconosciuti dal medico che li sta curando, ma anche dal punto di vista del professionista sanitario c'è molta discriminazione di genere e soprattutto alcuni sono ritenuti proprio invisibili sia come professionisti che come pazienti. Le persone transgender hanno particolari difficoltà all'accesso a questi servizi, le persone non binary, a partire per esempio dal fatto che quando sono in un ambulatorio e vengono chiamati con il loro nome, in cui magari non si riconoscono perché ancora non hanno cambiato la carta d'identità, cioè parte un difetto nel processo della cura. E quindi noi partiamo da questo discorso qui, dal primo approccio tra medico e paziente, per arrivare a definire un modello che includa veramente tutti e che metta in definitiva il paziente al centro del dibattito, perché quello che ci interessa poi è riportare la salute del paziente alla nostra attenzione. Capisco, era una tematica di cui non mi ero mai effettivamente posto il dubbio, quindi grazie di aver portato anche alla mia ignorantissima attenzione queste tematiche. Come vi troviamo? Allora, siamo su Instagram, Facebook, Twitter, ovunque. Stasera abbiamo parlato di tutt'altro, però sul palco. No, vuoi darci anche indirizzi così rimane? Sì, chi si cura di te è sia su Instagram che su Facebook, chi si cura di te con il punto interrogativo. Facile, facile. E ti ringrazio. Io ti ringrazio per lo spazio che mi hai dedicato. Ma figurati. E noi ritorniamo in diretta. In Italia sono 644 euro. Un attore in Italia è fortunato se ne guadagna 1.200 lordi al mese. Siamo i nuovi poveri. La media delle giornate contributive lavorate da un lavoratore dello spettacolo in Italia restano 7 all'anno. Il governo dei migliori, così si definisce, ha interrotto a maggio 2021 l'erogazione di bonus e misure compensative del reddito. Questo ha comportato per 55.000 tra colleghe e colleghi dover cambiare lavoro. Concludo. Il 20 maggio 1970, dopo 25 anni di agitazioni, repressioni e morti, veniva riconosciuto lo Statuto dei Lavoratori. Statuto dei Lavoratori. Dopo 10 anni, nel settembre del 1980, con lo smantellamento della Fiat Mirafiori e l'esubero di 24.000 operai, la classe operaia avrebbe iniziato a scomparire. Noi attendiamo una legge sul lavoro dal 1949, sono 73 anni. Non ci auguriamo di fare la stessa fine della classe operaia in Italia. Buon 25 aprile. Grazie Simone. E adesso chiamiamo sul palco Chiara Stoppa e Giulia Bertasi, che arrivano anche loro con Ultima Ruota come ponte con Atir, che si è unito a Partigiani in Ogni Quartiere. Buonasera, allora io sono Chiara e lei è Giulia. Allora, da 25 anni, allora 25 anni fa la compagnia Atir ha fatto questo spettacolo. Come un cammello in una grondaia, lettere di condannati a morte della resistenza europea. Noi cercavamo i nostri eroi e li abbiamo trovati in quelle migliaia, centinaia di migliaia di ragazzi poco più giovani di noi, che a discapito di ogni differenza sociale, anagrafica, di genere, culturale e geografica, in tutta Europa si sono uniti e hanno combattuto in nome degli ideali di libertà e uguaglianza nei quali si riconoscevano. Allora dovevano combattere contro l'oppressore nazifascista, ma il loro spirito, le loro parole restano tuttora quanto mai attuali. Il tempo è cambiato, il mondo non parliamone nemmeno, ma quegli ideali, quei principi no. Quei giovani ragazzi poco prima, a volte pochi istanti prima di salire al patibolo, hanno lasciato testimonianza. Hanno scritto alle loro famiglie, ai loro amici, talvolta al loro partito, sempre invocando il senso della loro lotta, la loro fede e il loro credo, e sempre nella convinzione che non sarebbero morti invano e che valesse la pena sacrificare la loro stessa vita in nome degli ideali per i quali si erano battuti. Sono lettere forti, passionali, emotive, strazianti e al contempo gonfie di un affiato vitale, di amore. Ce n'è una però che ci ha colpiti maggiormente. Sì, quella di Giacomo Ulivi, un partigiano non ancora ventenne che sceglie di dedicare le sue ultime parole alla società intera. Al suo stesso mondo. A tutti coloro che sarebbero rimasti dopo di lui. In qualche modo al suo futuro. E il suo futuro, oggi, siamo noi. Cari amici, dobbiamo guardare ed esaminare insieme. Che cosa? Noi stessi, per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali, per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto per giungere dove siamo giunti. Vorrei che con me conveniste quanto ci sentiamo un po' impreparati e gravati di recenti errori e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi, è la premessa per tutto il resto. Dobbiamo fare noi stessi, ma perché? Ecco, allora, per esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo. Allora, è un sentimento generale, diffuso e soddisfacente, ma credo lavorare non basterà. Il desiderio invincibile di quiete, anche se laboriosa, è il segno dell'errore. Perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione noi negativa. Noi Radio ZAM mi sa che dobbiamo concludere qua per motivi tecnici la nostra diretta, nel senso che cominciano a smontare tutti i vari service e noi come tanti dobbiamo purtroppo chiuderla qui. La manifestazione va avanti, la piazza in qualche maniera comincia a svuotarsi, rimane una bella piazza comunque piena, se ne sarà andata diciamo un quarto della gente, pare abbia pure smesso di piovere, la festa continua, siamo qua e noi vi ringraziamo per l'ascolto, buon 25 aprile a tutti e 25 aprile tutti i giorni. È sciagura nostra.